si risparmino i ministeri e le poltrone di sottosegretario per tutti coloro Ma che sono state offerte queste poltrone? Ma sì, ma in diverse circostanze sono state offerte. Ma anche ultimamente? Ultimamente pure. No, da ultimo solo con le dichiarazioni che lei ricordava. Ma insomma, risparmino quei posti per i deputati che hanno trovato all'ultimo momento dall'Italia dei Valori o da qualsiasi altro raggruppamento. Se li risparmino, perché? Perché se invece di far solo chiacchiere producono dei provvedimenti e delle riforme che oggi servono non per contenere la spesa pubblica, che è giusto ma non basta più, ma per un piano di rilancio e di riforme che comincino quella rivoluzione liberale che era stata promessa e mai attuata, noi la voteremo comunque, perché la nostra opposizione non è come quella della sinistra e sarà così anche quella del nuovo polo che oggi è nato, era un'opposizione repubblicana, quindi se ci sono delle cose che ci convincono e vanno nella direzione dell'agenda economico, sociale, culturale che noi abbiamo in mente, noi le voteremo comunque. Lui ha risparmiato i posti di ministri e sottosegretari, faccia le riforme, ha voluto la fiducia per forza, l'ha cercata, ha vinto, è stato bravo, è nato il governo Berlusconi-Scilipoti. Anche lei con questa battuta, anche lei ha adornato con questa battuta. No, ma non è una battuta, no, adesso, se appare tale la ritiro. No, perché a noi piacciono le battute.